Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buon sabato pomeriggio a tutti. Allora, come sempre siamo qui con Avanzi di Manera, in cui diamo voce alle notizie di cui poco si parla sulle prime pagine dei giornali, quindi notizie strane, notizie interessanti, notizie desuete, insieme a Daniele Ceva. Buongiorno. Ecco, buongiorno Leonardo. Daniele Ceva, che oggi è molto carico, lo vedo più carico del solito. Come mai? Sì, era qui? Non lo so, non nello lo so. Studio giocava, si metteva la spugna del microfono sul naso, si faceva dei selfie. Ma perché io rimango un bambino dentro, hai capito? Io con qualsiasi cosa cerco prima di tutto di giocare, poi sì, insomma, per utilizzarlo per ciò che è stato fatto. Oggi comunque noi vogliamo partire con una notizia che è contemporaneamente bella e brutta, che ricaviamo da un quotidiano che potete anche vedere voi. È un quotidiano che si trova online, si chiama blitzquotidiano.it. La cosa interessante di questo quotidiano qual è, Ceva? Ma io ricordo non Blitz, lo sa, non io lo mi ricordo sa. Blitz, quello che leggevo io quando insomma ero un po' più giovincello e c'erano le donnine nude. C'erano le sopra. Donnine nude, Albo Blitz si chiamava. C'era Albo Blitz. E poi vendevano anche un po' come anche come l'Intrepido, vendevano questa cosa tipo le scimmie di mare o gli occhiali. Gli occhiali per vedere attraverso, i vestiti a raggi X, esatto. Il bicchiere per ascoltare dall'altra parte della parete, esatto. Cosa si diceva? Che era un bicchiere di plastica, ma sì, lo pagavi 25.000 lire. E poi sa cosa c'era? C'era, sì, il profilattico che ti permetteva di allungare un po' le tue dimensioni. No, quello non l'ho mai visto. C'era nell'Intrepido, anche lo vendeva nella pagina Intrepido. In cosa consisteva? Era un profilattico normale che però all'apice aveva un piccolo... un tappo di sughero, una specie di tappo di sughero che ti permetteva di migliorare anche le tue dimensioni, diciamo così. Esatto. So che lei ha fatto, lei ha comperati, ma tantissimi perché poi per ogni tipo c'era, insomma, c'era quel tipo, però ritardante per lui, stimolante per lei, eccetera, eccetera. Ma io le varie tipologie, io solitamente metto dentro una pallina da ping pong ma anche quando non uso il profilattico, così proprio nella mutanda. Esatto, esatto, per fare bella figura in piscina. Mandiamo alla notizia. Allora, ristorante vegano infestato da scarafaggi, il proprietario dice non posso fargli del male. Scarafaggi nel ristorante, non per banale mancata osservazione delle norme igieniche, ma per scelta. È la vicenda del Kingsland Restaurant, un ristorante vegano di Canberra in Australia. Il locale in poche settimane ha collezionato ben 16 multe dell'ufficio igiene perché è infestato dagli scarafaggi. Il problema qual è? Che il proprietario, questo signor Kang Huang, è un vegano duro e puro e quindi non vuole fare del male a qualsiasi animale. Quindi gli scarafaggi vanno avanti e indietro, ma lui non vuole fare niente. Pare che le multe le abbia prese perché non erano in regola gli scarafaggi, cioè lui li ha assunti, li ha voluti lui. Però insomma, onore anche a lui che è coerente, perché questo Mr. Hung ha già pagato 16.000 euro di multa, ma per lui l'amore per gli scarafaggi non ha prezzo. Vedi, questa viva l'amore. È questione di coerenza. Siccome però noi siamo preparati su tutto, abbiamo anche qualche battuta sui vegetariani. Legga lei caso a caso qualche battuta sui vegetariani. Ceva. Allora, leggiamo qualche battuta sui vegetariani. Ho smesso di comprare cibo naturale quando ho scoperto che l'80% della popolazione muore di cause naturali. Questo l'avevamo già detto la settimana già detto, scorsa, però non me l'ha evidenziata, quindi facciamo il bis della battuta. Poi vabbè, c'è Romano Bertola, famoso comico, che chiede: ma i vegetariani si reincarnano? Lascia inibiti la domanda. È bella, bella, ma questa piace. Un'altra è: di solito dico ai vegetariani: ehi, anche gli ortaggi sono esseri viventi, sono solo più facili da acchiappare. Di Kevin Brennan. Me la ripeta, che non l'ho sentita bene questa. Allora, di solito dico ai vegetariani: ehi, anche gli ortaggi sono esseri viventi, sono solo più facili da acchiappare. Questa è brutta, non mi piace, non mettiamo la risata. Gliela rilego la terza volta fa ridere. Me l'ha riletta la seconda volta, ma ugualmente. Okay. L'ultima, via l'ultima. Allora, bella, divertente, ne trovi una divertente. Ceva. Bene, non sono un vegetariano perché amo gli animali, lo sono perché odio le piante. Questa è carina. Cosa dei i fobici? Conosce i fobici? Non conosco i fobici, sono un gruppo. No, scusi, così di bumper sticker. Ho saltato un bumper sticker, riga. Esiste? Sembra un personaggio no. Di cartoni animati. No, bumper no. Sticker. Come un nome inventato, come Bugola. Proseguiamo con le notizie e cambiamo argomento. Una cosa che interessa molto gli uomini, questa, è la seguente: gli uomini con la pancia sono sono più bravi a letto. Una ricerca conferma che i maschi con un po' di pancia e una forma non proprio perfetta sono gli amanti migliori. Perché, Ceva? Io non sono mai stato a letto con un uomo con la pancia. Io non ne ho più. Non è vero, lei è stato più volte a letto con uomini, anche con la pancia, senza pancia. Ho sempre preferito quelli senza. A lei però va bene un po' tutto quello che c'è, uomini, esatto, donne, quello che capita, capita. Quello che giusto? Passa il convento. Quello che passa il convento. So tra l'altro che è in crisi in questo periodo, no, sentimentale. Ma assolutamente no, e poi non sarebbe comunque una cosa da comunicare agli ascoltatori. Ma non di è, nella fattispecie, so che lei è sempre in crisi, qualsiasi fidanzata abbia, è un certo suo specifico, diciamo, l'essere in crisi con la fidanzata e col fidanzato. Comunque, il segreto degli uomini con la pancia qual è? Risiede nel tessuto adiposo, cioè appunto nella pancetta dell'addome, che produce estradiolo, che è un ormone in grado di far durare di più il rapporto sessuale, ritardando l'orgasmo. Quindi il segreto qual è? Se voi uomini avete la pancia piatta, avete la classica tartaruga, durate meno. E fatevi delle grandi iniezioni di istriadiolo. No, di estradiolo. Estradiolo. Invece gli uomini che hanno un po' di pancetta hanno appunto questo estradiolo che permette di ritardare l'orgasmo. Quindi l'uomo più pancia ha, più ci mette per finire il rapporto sessuale. Bene, mi fa piacere per le donne che però sono costrette a fare l'amore con uno con la pancia. Questo mi è un problema per voi. Perché a me è capitato di parlare con una donna che avevo un fidanzato che durava tantissimo a letto e lei dopo un po' si annoiava. Beh, capita. Secondo lei qual è la durata giusta per un rapporto soddisfacente? Secondo me non so, io immagino un 20 minuti. 20 minuti, ma guarda, adesso vediamo che cosa hanno detto le persone alle quali abbiamo telefonato per chiedere un parere sulla questione. Vediamo. Pronto? Pronto, buongiorno, qui a Radio 24, la radio del Sole 24 ore. La conosce? No, è un argomento che non mi interessa, purtroppo devo scappare. No, le chiedo solo una piccola cosa, un commento a una notizia. Sembra che gli uomini con un po' di pancetta facciano meglio l'amore. Lei ha esperienza nel settore? Ma io ho esperienza non nel settore, ma con la pancetta eccetera non saprei. Ma lei ha un po' di pancetta? No. Per niente? No. E quando fa l'amore le sue compagne si lamentano o si trovano bene? Perché si devono lamentare? Perché sembra che gli uomini con un po' di pancia durino di più sessualmente, invece quelli con la tartaruga, con la pancia perfetta, durino meno. Lei No, io non ho di questi problemi. Quanto dura lei mediamente durante un rapporto? Un mese e mezzo lì a guardare con l'orologio. Un mese e mezzo va avanti senza smettere mai? Sì. Non ho capito cosa ha detto. Ha detto che dura. Non mi metto mica lì a guardare l'orologio quando comincio e quando finisco. Ma mediamente riesce a fare una stima di quanto dura così, a occhio? Una ventina di minuti. 20 minuti compresi preliminari o senza? No, senza. Ah, quindi lei fa primi preliminari e dopo va avanti 20 minuti. Posso chiederle quanti anni ha? 65. E ancora fa 20 minuti più preliminari, ma con chi? Con sua grazie a Dio, sì. Caspita, la invidio parecchio, ma con sua moglie o anche con amanti anche che trova? No, con la mia moglie. E dopo non sono più invadente, ma quante volte lo fa più o meno? Una volta al mese? Ma che una volta al mese? Due o tre volte alla settimana? No, non le credo. Faccia come vuole, se non mi vuole credere non mi creda. Ah, caspita, ma da quanti anni è sposato? Da 30 anni. E ancora lo fa tre volte alla settimana e ogni volta va avanti 20 minuti più preliminari? Diamine. Certo. Sua moglie è contenta, quindi? Certo. Ah, va bene, la ringrazio. Vuole anche fare un appello, siccome non ce ne sono tanti di uomini così, vuole fare un appello ad altre donne che volessero eventualmente avere dei rapporti con lei, qui alla radio, quindi magari l'ascoltano in tante e vengono. Da dove abita lei? No, non c'è bisogno, tanto se mi riesce la trovo senza bisogno d'appello. Ah, caspita, lei è un Latin lover, la ringrazio. No, prego. Complimenti. Grazie. Buongiorno. E allora avete visto cosa ci ha risposto questo signore, che noi invidiamo tantissimo perché ha tre rapporti alla settimana, insomma è molto attivo nonostante l'età, dice che non ha pancetta però ugualmente ha una durata soddisfacente. La cosa importante però qual è in amore, Ceva? In amore è tutto importante purché vi sia l'amore. No, l'importante è scegliere la persona giusta, perché questa notizia che riprendiamo dal giorno, dal quotidiano nazionale, è la seguente. A Vittuone, sa dove è Vittuone? Vittuone è vicino Milano. Milano. È vicino a Milano, sia un po' più preciso. È più o meno vicino a Milano, 30 km da Milano. Sgradita corte alla figlia, padre picchia il giovane insistente. Picchiato selvaggiamente fuori da scuola da un uomo molto più grande di lui, è avvolto nel mistero l'aggressione di un 18enne avvenuta nel pomeriggio. La sostanza qual è? Che è autobiografica, no, per lei questa notizia, ma l'era scritta lei. No, io non sono mai stato picchiato dai padri, insomma, anzi, adesso che ho un figlio, quando sarà adolescente starò anche attento alle sue fidanzatine. Però sì, certo. Il problema qual è? Che questo padre non gradiva il fidanzato e quindi lo ha picchiato. Insomma, adesso dipende, dice che era molto insistente. Secondo bisogna me vedere in che modo è giusto, io sono d'accordo, bisogna che i genitori tornino ad occuparsi delle persone che frequentano i figli. Ma lei è troppo rigido, vive ancora nel medioevo dal punto di vista sentimentale. Liberi sua figlia qualora un giorno ne avesse una. Mio figlio controllo, perché altrimenti cosa succede? Che si frequentano compagnie strane e succede come a questa persona, notizia del mattino, si ubriaca a una festa con i suoi amici e al risveglio fa una brutta scoperta. Quale brutta scoperta? Allora, praticamente questa ragazza era ad un tattoo party, se non sbaglio, insomma, dove tutti i ragazzi si facevano tatuare. Si è ubriacata la sera? Si è ubriacata, esatto, e si è risvegliata con un tatuaggio particolare. Ma che tatuaggio era? Era un bel pene sulla schiena. Dopo una notte di divertimenti, l'adolescente ha scoperto il giorno dopo di avere un pene tatuato sulla schiena, lo stesso che è stato definito il tattoo più imbarazzante dell'intera Gran Bretagna. Ma io lo so, io mi esiberei come la donna col pene sulla schiena nei circhi, sa, questi circhi un po'. Io sa quali sono i miei tatuaggi preferiti nelle donne? Sono, guarda, quelli, diciamo, sulla schiena, nella zona della bassa schiena, che hanno una freccia che indica verso il basso, come un'indicazione. Cioè lei ha bisogno ho bisogno dell'indicazione, se no mi perdo, non riesco ad arrivare. Invece so che la freccia indica lì e so dove devo andare, anche se non sempre insomma è lei che ha una volontà, se indica, quindi insomma sì, quindi io mi sento più è un suggerimento. Abbiamo anche delle battute sui tatuaggi, ne dico una io, poi ne dice una lei. Allora, questa è carina. Quella ragazza è talmente modesta che sui fianchi si è fatta tatuare delle smagliature. E queste di? Di Paolo Burini. Paolo Burini, invece io le leggo una di Billy Elmer, che anche qua non sappiamo se esiste o meno. Molte donne si fanno tatuare. Non farlo, è una roba folle. Le farfalle stanno benissimo sul tuo seno quando hai 20 o 30 anni, ma quando ne hai 70 o 80 si dilatano fino a trasformarsi in condor. Questa è una battuta utilizzata da tanti comici, no? Invece magari il seno regge fino a tardi. L'ultima, che non è sui tatuaggi ma è sui buchi in orecchio. Aspetta, quindi che non c'era ancora la battuta, diciamo, ha fatto partire la risata. Mi sono fatto un altro buco nell'orecchio, ora sì che ci sento. Era meglio non dirla. Anche perché di buchi nelle orecchie non ne abbiamo parlato. Allora, noi stiamo per mandare il traffico, ma prima la nostra rubrica, siccome le previsioni del tempo spesso sono sbagliate, noi abbiamo una rubrica che è le constatazioni del tempo. Vediamo se qualcuno ci ha risposto. Buonasera, qui a Radio 24, la radio del sole 24 ore. Posso chiederle che tempo c'era da voi a Venaria, giusto, domenica scorsa? Non ero a Venaria. Dove si trovava? Io ero altrove, ero in un'altra città. Può dirci che tempo c'era nell'altra città in cui si trovava? Coperto, nuvoloso. Tutto il giorno o la mattina, pomeriggio, sera? No, tutto il giorno. Tutto il giorno è stato coperto. Può farci anche una stima della temperatura, più o meno? Non ne ho la più pallida idea. Quindi era una giornata adatta per fare che cosa? La cosa ideale sarebbe stata dormire. Dormire. Quindi possiamo dire che domenica scorsa nell'altra città il tempo era coperto con una temperatura non stimabile ed era il giorno adatto per dormire. Possiamo dire questo? Se volete. Grazie. Prego. Buon anno. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Siamo ancora qui ad Avanzi di Manera. Vi ricordiamo con Daniele Ceva, Leonardo Manera, vi ricordiamo che se volete, anzi ci fate piacere, se lo fate ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica, che è avanzidimanera@radio24.it. Mandateci anche voi se avete qualche notizia curiosa, qualche cosa che è capitato di strano, di simpatico, di anomalo, di poco evidente sui grandi mezzi di comunicazione nella località dove abitate, e noi daremo luce e lustro a queste notizie che ci mandate, quindi quindi vi invitiamo a scriverci. Avanzi Manera, @radio24.it. Proseguiamo con le notizie. Ceva, la legga lei questa, via. Allora, parliamo di questa ragazza, signora, diciamo, questa del quarantenne che non sorride, me lo credo che abbia 40 anni, non sorride da 40 anni per evitare le rughe. Gli hanno chiesto come mai e lei ha risposto: così sembro giovane. Lei Manera non l'ha mai fatto questo esercizio, come vedo, no? Io sono rugoso, però il fatto è che lei, non sorridendo mai, ha fatto questo allenamento per controllare i muscoli facciali. Tutti mi chiedono se ha fatto un lifting, ma il mio segreto è un altro: non sorrido mai e ha il viso di un adolescente, cioè completamente liscio, senza rughe. Non so se ne valga la pena, perché tutti mi chiedono se ho fatto un lifting, ma io sorrido. Ah no, non può sorridere. È importante per lei, più importante avere il viso liscio che non sorridere, insomma. E a proposito di chirurgia estetica, anche se quella non è chirurgia estetica, ma siamo nell'ambito metodi nell'ambito insomma, per modificare il proprio aspetto estetico. Abbiamo questa notizia che è proprio di pochi giorni fa: maggiorate per un giorno, un'iniezione e dopo 24 ore il seno si sgonfia. Come si fa, Ceva? Con un'iniezione di una soluzione salina, pare. Questo metodo si chiama Instant Breast ed è un'iniezione, appunto, messa a punto da un chirurgo plastico di New York. Una soluzione salina iniettata nel seno e si vince una taglia in più, ma solo per un giorno. È una sorta di Viagra, sì. Viagra per il seno, che anche lì ha una funzione limitata nel tempo, e questo invece per il seno. È un po' un inganno per noi poveri uomini, perché tu esci con una che magari dice questa è una terza, poi magari si è fatta due iniezioni, in realtà una prima, ha fatto due volte, se l'è gonfiato e dopo il giorno dopo. Esatto, no, poi potrebbe capitare che se lo sia fatto il giorno prima, quindi tu sei proprio nel momento in cui si sgonfia, sì. Sarebbe una delusione durante il però rapporto. Io sono favorevole alle donne che si rifanno il seno, alla chirurgia estetica, perché a me l'idea che una donna si rifaccia solo per essere più gradevole dal punto di vista estetico e anche erotico per l'uomo, questa cosa mi eccita. Secondo me è tutta vanità e vanità e tutta io vanità. Voglio donne che si rifanno, molto rifatte. La mia donna ideale è quella rifatta dalla testa ai piedi. Va bene, leggiamo qualche battuta sul seno femminile. Il latte materno non è solo il latte più genuino, è anche quello nella confezione più eccitante. Ne leggo un altro, ovviamente. Il reggiseno è uno strumento politico, separa la destra dalla sinistra, solleva le masse e attira i popoli. Vediamone una ultima. Allora, mio padre ha sposato una donna sfatta. A vederla nuda non si capiva se aveva il doppio mento o il triplo seno. La risata è stata un po' schifata. Un po' schifata. Va bene, andiamo a sentire. Abbiamo telefonato a un centro estetico per capire qual è l'opinione riguardo a questa iniezione che fa aumentare il seno per un giorno solo. Vediamo. Buongiorno, qui a Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Stiamo commentando una notizia secondo cui c'è questa iniezione che viene fatta nel seno femminile e il seno aumenta di una taglia, però solo per un giorno, poi torna come era prima. Posso chiedere a lei cosa ne pensa? A me sta cosa io non lo farei mai. Lei ha un centro estetico? Sì, esatto. Lei che tipo di operazioni può fare sul seno? Non certi interventi con aghi o cose del genere, solo manualmente. Cioè lei, manipolando il seno un po' così, massaggiandolo, riesce a farlo lievitare, a farlo aumentare di volume? Sì, con delle creme, con dei prodotti giusti. Ma di quanto si può gonfiare? Ma dipende anche da com'è il seno, dall'età, dovuto all'età. Cioè più il seno è giovane, diciamo di una ventenne, si gonfia di più rispetto a quello di una cinquantenne? Secondo me la ventenne è quella che forse non ha bisogno. Ma mettiamo che la ventenne voglia aumentarsi il seno, lei glielo manipola un po', glielo massaggia e il seno aumenta un po'. E invece se fa la stessa operazione su una sessantenne, magari con la stessa... Un po' meno, cioè perché comunque il tessuto è cadente, è rallentato, non risponde più. E sulla quarantenne, per esempio, io con la mia fidanzata, se le manipolo il seno un po', così, può aumentare anche il suo? Per esempio, mettiamo che abbia una seconda, se io dico adesso te lo manipolo... Lei dovrebbe saperlo manipolare nel modo giusto, prima di tutto, e usare il prodotto giusto. Non so se è in grado lei di manipolare, cioè nel col movimento. Ma devo fare una manipolazione intensa oppure morbida? Non lo so, cioè non saprei spiegarglielo, perché io lo faccio ma non riesco. Di quanto si gonfia dal giorno all'altro? Scusi, abbia pazienza, devo andare, buongiorno. I capezzoli lascio stare? Buongiorno. Il capezzolo? in televisione ci sono sempre le solite trasmissioni, invece Daniele Ceva, che è, diciamo, millanta di essere un creativo, propone propongo questa settimana ai produttori televisivi una trasmissione che si chiama Buddisti Ferrovieri. Le idee di Daniele Ceva, questo è il titolo della rubrica, per dei nuovi format televisivi. La descriva, Ceva. Quindi, allora, Buddisti Ferrovieri, sappiamo che i buddisti credono nella reincarnazione e nella trasmigrazione delle anime, ci si porta dietro un po' tutto ciò che si è fatto nella vita precedente, lo si porta dietro nella vita successiva. Buddisti Ferrovieri parla di questi che, insomma, si reincarnano con un'ora di ritardo. Che ne so, abbiamo un caso specifico. Ci sono anche dei casi precisi. Un caso specifico in cui questo ferroviere buddista si è reincarnato in uno di Venezia, ma prima si è dovuto reincarnare in uno di Alessandria, cambiare a Milano, insomma, proseguire. Quindi ferroviere buddisti, e secondo me farà degli ascolti altissimi. Mettiamo una risata, che questa, dicevo, vuole essere una battuta. Dicevo che se non, qualora non vi fossero degli ascoltatori in questa vita, sicuramente vi saranno nella vita successiva. E dopo aver fornito delle nuove idee come questa per i futuri palinsesti televisivi, Buddisti Ferrovieri, volevo solo ricordare. Buddisti Ferrovieri si chiama questa trasmissione. Vogliamo salutarvi con un avanzo di poesia. L'idea qual è? Che tutti abbiamo in mente le poesie più note, ma pochi conosciamo quelle dei poeti, diciamo, che sono emergenti. Emergenti, speriamo che un giorno emergano e noi li aiutiamo, assolutamente. Sono avanzi di poesie, nel senso che non sono conosciute, ma noi le citiamo, poi possono piacere o non piacere, a voi il giudizio. Oggi che abbiamo, Manera? Ancora Paola Capobianco. Ah, Paola Capobianco ormai è nostra ospite fissa, diciamo. Questa poesia si intitola Volevo. Volevo. Volevo. Volevo a tutti i costi imbalsamare il vento. Bella l'idea di imbalsamare il vento, perché ti dà l'idea del tempo sospeso, il tempo fermato. Abbiamo capito, il vento che tu vai. Lei non deve spiegare ad ogni strofa il significato. La ridico. Volevo a tutti i costi imbalsamare il vento. Volevo a tutti i costi mettere sotto vetro la caparbietà. E qui è bello, perché di solito si mette sotto vetro il pomodoro. Esatto. Le olive. Le cipolle. Ma poi quando la mangi, la caparbietà. Chi ha messo mai sotto vetro la caparbietà? E metterla a bagnomaria. Bellissima questa idea. Questa persona voleva imbalsamare il vento e mettere sotto vetro la caparbietà. Ho trovato solo spine, chiodi arrugginiti, non di garofano. Ho trovato solo spine, chiodi arrugginiti, e pensare che volevo. Volevo. Queste grandi ambizioni, voleva imbalsamare il vento e mettere sotto vetro la caparbietà, ma ha trovato solo spine e chiodi arrugginiti, è un po' amara. E poteva imbalsamare quelle, ad esempio, o mettere sotto vetro i chiodi arrugginiti. Questa è la poesia di oggi. Paola Capobianco. Va bene, ciao, noi Paola. Abbiamo finito anche per oggi. Buon sabato sera, speriamo che stasera possiate accoppiarvi numerosi, avere rapporti sessuali gratificanti, visto che abbiamo portato anche di quello prima. Non dimenticate di gonfiare il seno, iniziate adesso che vi dura anche fino a domani, e di avere nella pancia un po' di estradiolo che migliora i rapporti sessuali, durano di più. Ciao. Daniele Ceva, Leonardo Manera, Pietro Manera. La Corte, Marco Del Conte e Guido Scotti, sempre presente. Ciao, buon pomeriggio. Ciao.